questo martedì 13 marzo. I titoli intanto: pensioni, la guida pratica, età, contributi e scadenze. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, che oggi è proprio un dossier sulle pensioni. Corriere della Sera: 10 giorni per l'intesa sul lavoro. Per Repubblica: lavoro, 10 giorni per chiudere. La Stampa: lavoro si chiude in 10 giorni. Il Messaggero: lavoro, stop dei sindacati. Come vedete, dunque, la riforma del lavoro in primo piano per molti quotidiani. Per Il Manifesto: spesa proletaria. Questo è il titolo: l'Italia in recessione tecnica. L'Unità: ridurre il prezzo. E indovinate di che cosa? Cos'è che costa in Italia, che vi fa venire la giugulare al collo ogni giorno di più? Ebbene sì, la benzina. Il Fatto Quotidiano: Dell'Utri libera tutti. Il Giornale: finito il fango sulla sentenza di Firenze e sulla mafia. Mentre Libero: imboscati 41.000 prof. Questo è il titolo di apertura di Libero. Intanto da cosa voglio partire? Ah, questa storia che proviene dal comune di Genova, storia dal mondo della casta, è davvero spassosa. Repubblica in prima pagina. Raffaele Niri racconta: in comune pochi minuti e il gettone è assicurato. Mercoledì scorso a Genova c'era un bel sole primaverile, così il consigliere comunale Aldo Praticò del PDL si è presentato alla seduta della commissione alle 14.48 e ne è uscito alle 14.49, un minuto dopo, senza neppure togliersi il casco della moto per fare più in fretta. Per quel minuto di lavoro, lavoro come potete capire è scritto tra virgolette, ha risposto presente, insomma, la domanda praticò presente. Riceverà per questo a fine mese 97 euro e 61 centesimi, più o meno come un idraulico per un minuto 97 euro e 61 centesimi. Il 16 febbraio aveva fatto la stessa cosa, il 15 febbraio era rimasto 2 minuti, il 23 gennaio 3 minuti, il 18 gennaio addirittura 4 minuti. Ogni volta che gli dicono praticò e lui risponde presente, fanno 97 euro e 61 centesimi. Nelle ultime 18 commissioni consigliari, Praticò ha vinto per 9 volte il trofeo prendi soldi e scappa. È questo un monitoraggio che Repubblica ha fatto per 2 mesi, appunto, al consiglio, alle commissioni del Consiglio Comunale di Genova. C'è anche Vincenzo Vacalebre dell'UDC alla vigilia di San Valentino, è rimasto in aula 180 secondi. Andrea Proto dell'Italia dei Valori il 9 febbraio lo ha superato di pochi attimi e ogni volta nelle loro tasche, in quelle di tutti i consiglieri comunali che rispondono all'appello del presidente della commissione, arrivano 97 euro e 61 centesimi lordi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale. È una vera schifezza, persone che sviliscono il senso della democrazia, tuona il presidente del Consiglio Comunale genovese Giorgio Guerello. Il dato di fatto è questo: basta arrivare, dire presente, te ne vai e in commissione risulti appunto con 97 euro in più. Basterebbe il contrappello come a militare, basterebbe un comma di 2 righe a dire: il gettone di presenza viene assegnato almeno chi è presente sia all'inizio almeno anche alla fine della seduta. Ma sta di fatto che è così: toccata e fuga in aula, 100 euro di gettone per un minuto di seduta. Lo trovate su Repubblica pagina 13. Soldi, indovinate di chi? Vostri, ovviamente. Poi, come dire, prima della pubblicità vogliamo aprire e chiudere uno spazio dedicato alla follia, al delirio. Come giudicare la decisione di un'associazione che gode dello status di consulente speciale economico e sociale delle Nazioni Unite? L'associazione ha sede a Roma, si chiama Gerush 92, che oggi ha il suo quarto d'ora di celebrità waroliana su tutti i giornali, perché questa associazione ha controllato, dopo un ampio studio, la Divina Commedia di Dante Alighieri, no? Mica voglio dire la prima opera letteraria che gli passava per le mani, la Divina Commedia di Dante Alighieri, e l'ha giudicata in alcuni punti, in alcuni canti, omofoba, razzista, antisemita e per questo andrebbe vietata nelle scuole. Capisco, è così. Il Messaggero ne parla pagina 14, Libero fa un'intera pagina, follia ONU, ONU, insomma di un'associazione accreditata all'ONU, adesso non è l'ONU. Follia ONU, vogliono cancellare Dante, gli scempi senza fine del politicamente corretto, e anche un commento di Mattias Mainiero, e anche a pagina 2 di Avvenire, è uno dei tre commenti della pagina 2 di Avvenire, toglietemi tutto, Dante no, scrive Alessandro D'Avenia. Io sono lì che aspetto da anni una circolare ministeriale che mi costringa a leggere e commentare la Divina Commedia per intero, e dei consulenti speciali del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite propongono di depurare la commedia di ciò che non è politicamente corretto, un po' come mettere le mutande ai personaggi della Sistina o il bikini alla Venere di Milo. Io sto lì a lottare terzina dopo terzina cercando di evidenziare la grandezza profetica, poetica del poema nonostante i suoi limiti storici spesso valicati, e questi mi vogliono rubare terzine, mi vogliono togliere Giuda dal 24esimo canto dell'inferno perché dicono che Giuda per antonomasia è persona falsa, traditore, e giudeo è termine comune dispregiativo secondo un antico pregiudizio antisemita che indica chi è avido di denaro, traditore. Insomma, con queste motivazioni questa associazione, scrive Alessandro D'Avenia su Avvenire, vuole... cosa si potrebbe fare? Non so, riscriviamo la Divina Commedia Politically Correct per il 2012? Scrive D'Avenia, non è purificare Dante che ci guarirà dall'odio, dai nostri eventuali pregiudizi, ma saranno proprio le sue terzine, spesso scomode, ad aprire il nostro sguardo, aumentando così le nostre possibilità di evitare errori fatali, diminuendo quelle di incorrere in una visione egocentrica, chiusa e limitata. Ogni ideologia tende alla chiusura, all'espunzione, all'eliminazione. Solo chi affronta tutto senza paura, anche il pensiero del presunto nemico, può avviare una vera conciliazione. E mentre i consulenti speciali delle Nazioni Unite depurano Dante, io sono ancora qui che aspetto la circolare ministeriale. Insomma, è così. Un momento di celebrità per questa associazione. Mi viene voglia oggi proprio di andare a casa e prendere in mano, riprendere in mano la Divina Commedia. 24 mattino. Allora, cari ascoltatori, alle 7:36 minuti, oggi i giornali sono pieni di notizie un po' negative. Intanto siamo in recessione, lo ha certificato l'Istat. Nel quarto trimestre del 2011 il prodotto si è contratto dello 0,07% rispetto al trimestre precedente, dello 0,4% rispetto allo stesso trimestre del 2010. E poiché si tratta del secondo dato consecutivo di flessione del PIL, il paese si trova a tutti gli effetti in recessione. E poi, insomma, questo dato che tutti i giornali evidenziano, le spese e i consumi, cibo, bevande, tabacco, spendiamo, gli italiani spendono come nel 1981. Il calo dei consumi è un balzo indietro di 30 anni. Il Corriere della Sera addirittura che cosa fa? Va a scoprire che anno è stato quello del 1981. Trovate a pagina 8 e 9 due pagine dedicate appunto a questo anno 1981. C'era Alice con Per Elisa che vinceva Sanremo. C'era poi lo scandalo a Miss Italia, Patrizia Nanetti, perché a 16 anni si fece ritrarre in topless. E anche l'anno dell'attentato al Papa, il 13 maggio, no? E poi l'anno delle nozze di Carlo e Diana Spencer, il 29 luglio. Insomma, 1981, quell'anno lì, italiani. E siamo alle spese per i consumi di quel livello lì. 1981. Tutto questo mentre sulla scena politica c'è certamente in primo piano la riforma del mercato del lavoro. Allora, il ministro Fornero ha detto che tra il 21 e il 23 marzo si chiude il tavolo per la riforma del lavoro. Sapete che entro il 25 marzo è la deadline che il governo Monti si è dato per proporre la propria proposta di legge per riformare il lavoro. L'accordo dunque entro 10-12 giorni, così titola il Sole 24 Ore alla pagina 3, Fornero accelera, un nuovo sistema a regime nel 2015. Diciamo che i dati più interessanti li trovate a pagina 2 del Sole 24 Ore, riguardano i nuovi ammortizzatori sociali che sono stati presentati. Nonostante la CISL dica è un passo avanti, la CGIL dica con la Camusso è un passo indietro, sta di fatto che Davide Colombo e Giorgio Pogliotti a pagina 2 presentano che cosa? Il nuovo strumento. Si chiamerà Assicurazione Sociale per l'Impiego, in acronimo ASPI. È il nuovo ammortizzatore sociale che il governo introdurrà per garantire un'integrazione al reddito per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e per i dipendenti col contratto a termine del settore pubblico. Un sussidio unico a cui si arriverà con una gradualità molto stretta a partire dal 2013 per raggiungere il nuovo regime entro il 2015 e che manda in pensione le indennità di mobilità, gli incentivi di mobilità, la disoccupazione per apprendisti e tutte le altre forme di indennità introdotte con il lungo regime delle deroghe. Stando allo schema che è stato presentato ieri alle parti sociali, poi bisogna vedere se ci sarà l'accordo o non l'accordo, per i lavoratori fino a 39 anni a partire dal 2013 la mobilità sparirà, oggi invece è garantita per 12 mesi, e lascerà il posto a questo nuovo ammortizzatore la cui durata iniziale sarà di 8 mesi per poi salire gradualmente a 12 mesi al 2016. I lavoratori tra i 40 e i 49 anni che oggi contano su una mobilità di 24 mesi manterranno 18 mesi di mobilità per il 2013, ma dal 2014 avranno questo ASPI che coprirà fino a 12 mesi nel 2016. E poi insomma lo schema va avanti, ma leggete tutti i dettagli per i lavoratori tra i 50 e i 54 anni, oltre i 55 anni, insomma per tutti i lavoratori i dettagli di questo nuovo ammortizzatore sociale lo trovate a pagina 2 del Sole 24 Ore. Certo, l'accordo è questo, tutti guardano al modello tedesco e giustamente oggi il Corriere della Sera con Paolo Lepri fa una pagina a dire ma come? Nella lista diffusa ai primi di gennaio dell'OCSE sui paesi più rigidi in tema di licenziamenti, la Germania occupa saldamente le posizioni di testa. E allora perché tutti guardano al modello tedesco quando si invoca una maggiore flessibilità e si propone una riforma dell'articolo 18 proprio in guardando a quello che succede a Berlino? Perché, dice al Corriere Jochen Homburg, uno dei dirigenti del sindacato dei metalmeccanici IG Metal, la grande differenza tra Germania e Italia è che il datore di lavoro e il dipendente licenziato si accordano nel 95% dei casi per un indennizzo che viene valutato in base all'anzianità del lavoratore, un mese di stipendio al massimo ogni anno trascorso in azienda, molto meno di quanto questo indennizzo viene calcolato in altri paesi europei. In Germania, quando c'è la notifica di un provvedimento di licenziamento e l'azione legale intentata dal dipendente, il Tribunale del Lavoro si riunisce rapidamente. Tenete bene in mente questa parola, rapidamente. E qui in questo rapidamente c'è tutte le differenze tra l'Italia e la Germania. Generalmente in un arco di tempo dalle 2 settimane ai 2 mesi. Il primo obiettivo è quello di arrivare a una conciliazione. Se non si raggiunge la conciliazione, il giudice decide per una delle due parti in causa, stabilendo eventualmente o il reintegro del lavoratore o l'indennità al dipendente licenziato. È possibile anche che il datore di lavoro respinga il reintegro del giudice, offrendo un risarcimento che può essere calcolato a partire da una metà del salario mensile lordo ogni anno di impiego fino a un mese di salario lordo per ogni anno di impiego. Ecco, sistema snello, rapido, che cerca di puntare alla conciliazione e se no a dare ragione a una delle due parti, rapidamente. Questo per quel che riguarda la riforma del mercato del lavoro. Mentre la politica torna a discutere su questo vertice. Insomma, Monti pare un po' spazientito. Questi partiti lo stanno facendo un po' innervosire, per usare un eufemismo. Ha visto che c'è un po' di maretta, c'è ressa politica e ha detto ok, giovedì alle 20 siete convocati. Chi siete convocati? Ma chi? ABC. La famosa ormai Alfano, Bersani e Casini. ABC, l'ultimo vertice è saltato perché Alfano disse non parliamo di Rai e giustizia, poi c'era la frase di Riccardi, il ministro, questa politica mi ha schifato, eccetera. Le polemiche, stavolta Monti ha detto venite qua e sia chiaro, lo ha messo nero su bianco nel comunicato di Palazzo Chigi si parlerà di giustizia, si parlerà di RAI, si parlerà di ovviamente riforma del mercato del lavoro, cioè tutti quegli argomenti che hanno fatto saltare il vertice per volere di Alfano la scorsa volta. L'altolà del professore ai partiti è il retroscena di Francesco Bei su Repubblica. Uniti o il governo sarà più debole. Dunque Francesco Bei dice la situazione è difficile e dunque ha convocato, e su questi argomenti si parla anche di giustizia, si parlerà di lotta alla corruzione, insomma quegli argomenti per i quali Alfano ha fatto saltare il vertice. Alfano dice ora su Twitter: stavolta ci sarò. Sta di fatto che vi voglio segnalare anche per quel che riguarda il, se si vuole, la lotta alla corruzione, temi affini, un'intervista al ministro della funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, sono due pagine sull'Unità, a pagina 16 e 17. Dice Patroni Griffi: arriverà in aula un pacchetto di norme nel mio ministero per la quale ogni singola amministrazione dovrà predisporre il piano contro la corruzione. Mappatura delle aree dei procedimenti a rischio corruzione, ad esempio appalti, licenze edilizie, annona e mercati, vigili, antiabusivismo su quelle aree, rotazione degli incarichi dirigenziali, formazione specifica dei dipendenti, incompatibilità tra gli incarichi, insomma tutto un sistema per combattere la corruzione che si annida nella pubblica amministrazione. Poi però Patroni Griffi fa questa risposta spettacolare, perché ve la devo leggere, intervistato da Claudia Fusani. Sentite un po', i manager pubblici italiani soffrono di un vizio speciale, chiede Claudia Fusani. Vale a dire l'accumulo di incarichi, c'è un divieto all'ordine del giorno? Un espresso divieto non è in agenda, risponde il ministro. Beh, forse perché anche lei ha accumulato per anni, Capo di gabinetto con vari ministeri e nel frattempo presidente di sezione al Consiglio di Stato, mai temuto incompatibilità? E il ministro Patroni Griffi risponde così: attenzione, convengo che troppi incarichi non consentano di svolgere bene tutti gli incarichi e che possano essere una concentrazione di potere e compensi. Dico però che il Consiglio di Stato, come le università e i funzionari parlamentari, sono aree di eccellenza dove è giusto che lo Stato cerchi la propria classe dirigente. Si possono avere opinioni diverse. La mia è che esistono regole tali da evitare incompatibilità. Cioè, traduciamo, è vero, più poltrone può dare il senso che non si svolgono bene gli incarichi e c'è un accumulo di potere, ma per il Consiglio di Stato ci vogliono le eccellenze, cioè il Consiglio di Stato dove lui cumulava, ci vogliono le eccellenze. Questa è la risposta del ministro Patroni Griffi. E allora eccoci qua, la lotta alla mafia è una cosa importantissima, centrale, fondamentale. Quello che però i giornali stanno facendo sulla mafia negli ultimi giorni, secondo a mio giudizio, è una cosa davvero singolare e non uso aggettivi più duri, perché si tira la mafia come se fosse un cappotto da una parte e dall'altra, o le sentenze o le letture sulla mafia per dire questo o quello. Basta vedere oggi due giornali: Dell'Utri libera tutti, questo è il Fatto Quotidiano, cioè il fatto che forse viene messo in dubbio l'associazione esterna alla mafia. Questo nella sentenza dell'Utri. Il Fatto Quotidiano mette l'elenco di tutti quei politici che ora si possono salvare, da Cosentino a Schifani, ecco chi spera nella Cassazione. Dall'altra parte c'è una sentenza depositata a Firenze, una motivazione della sentenza sulla strage di Via dei Giorgofili, nella quale, fa sapere il Corriere della Sera, c'è scritto nero su bianco che ci fu una trattativa da parte di parti dello Stato con i boss per cercare di fermare il periodo delle stragi del 92, Capaci e Via D'Amelio, siccome era anche questa una delle ipotesi, su Forza Italia, cioè la nascente forza politica di Silvio Berlusconi, non ispirò le stragi. E allora ecco il giornale che titola: finito il fango, antimafia a orologeria, la sentenza per le stragi del 93 a Firenze smonta il teorema Manettaro, Forza Italia non c'entra, per la prima volta i giudici certificano la vergogna della trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra. E così ogni giornale tira un po' queste sentenze da una parte e dall'altra, le interpreta come vuole, le interpreta a proprio piacimento, per cercare di avere di dare delle letture politiche su questo. Chiaramente leggete per esempio sempre il Fatto Quotidiano, pagina 5, Davide Milosa, questo veramente un po' si supera, le relazioni di Berlusconi, la cena mancata, attenzione, la cena mancata con l'Andrangheta, il sottotitolo è questo: nel 2009 per due volte l'ex premier fu a un passo dal sedersi a tavola con i boss dell'Andrangheta. Succede quando una prima volta il boss Paolo Martino, poi arrestato, è stato invitato da un tesoriere del PDL alla corte del premier. La seconda volta, il 26 novembre, quando assieme a Giulio Lampada ci sarà il consigliere regionale calabrese Morelli, politico legato a Roma, Gianni Alemanno, grazie alle buone entrature dello stesso Morelli, l'uomo dell'Andrangheta otterrà la documentazione per sedersi al tavolo così importante. Peccato che due anni dopo sia Lampada che Morelli finiscono in carcere. Insomma, il Fatto Quotidiano dice: Berlusconi è stato a un passo dal sedersi a tavola con dei boss dell'Andrangheta. Vabbè, andiamo a vedere cosa succede all'estero. Come detto, alle 8.30 ce ne occuperemo. In primo piano la strage fatta da un marine americano in Afghanistan, sposato, tre figli, una trentina d'anni, questi pochi dettagli, il nome ovviamente non si sa, gli americani lo tengono nella loro base in Afghanistan, alla richiesta di Kabul processatelo qui, ovviamente Washington farà spallucce e lo porterà negli Stati Uniti, Obama ha promesso verrà comunque fatta giustizia, era la sua prima missione in Afghanistan. Così lasciano trapilare i comandi militari americani, aveva una grande esperienza, era stato tre volte in Iraq, ha agito da solo, ribadiscono, ma su questo c'è un giallo, sul perché abbia deciso di compiere una strage, uccidendo alcune, sterminando alcune famiglie, comprese donne, bambini, non ci sono motivi. La TV americana ABC ha però rivelato che nel passato il militare aveva avuto un incidente in macchina e aveva riportato danni cerebrali, che mi sembra un aggravante, voglio dire, perché se fosse così forse non era il caso di mandarlo in una zona di guerra, un militare che ha subito danni cerebrali e che quindi poi dopo ha manifestato in questo modo queste problematiche. Sta di fatto che questo è il tema di cui ci occuperemo. Fausto Biloslavo racconta di 200.000 soldati americani al fronte che hanno avuto problemi mentali. Avremo ospite anche Alberto Negri del Sole 24 Ore, che oggi fa un'analisi interessante comparando sia quello che è successo in Afghanistan sia la strage denunciata a Homs in Siria, dove la parte dei cosiddetti rivoltosi contro il regime di Assad denuncia appunto questo massacro che c'è stato ai danni di donne e bambini, tanto che il Secolo XIX titola in prima pagina, in maniera, se si vuole, anche un po' molto macabra, c'è la foto di un bambino morto, è molto forte la prima pagina del Secolo, la foto di un bambino morto e il titolo: prima le donne e i bambini. Questo sul Secolo XIX in prima pagina, ma d'altronde l'orrore della guerra è proprio questo. Vittorio Emanuele Parsi si chiede, ce lo chiederemo anche noi, che senso ha restare a Kabul fino al 2014, in un commento che compare sulla stampa. Di tutto questo comunque ne parleremo alle 8.30. Voglio chiudere con un sorriso, non vi posso lasciare così. La Gazzetta dello Sport, Gene Gnocchi, Mario Monti, servirebbe una manovra bis, ma se Maradona paga le tasse, siamo a posto.